RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Del ventre della terra, giù profondamente, dove la collera cresce violentemente. La voce deve essere ardente come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari, forte come il tuono, calda. Il cammino non può essere che di sangue. La canzone del fango rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva. Ben trovati a tutti quanti, benvenuti a Alternitalia. Eh sì, è venerdì e quindi è Alternitalia, solo musica italiana da questo momento fino alle ore 18. Io sono Gianluca Polverari e quindi, come classico nell'inizio di weekend, dedichiamo lo spazio di due ore di Radio Città Aperta alla musica underground italiana, che ha più valore ancora quando è in contemporanea con Sanremo. Ma non parleremo di Sanremo, già lo fanno in tanti, in troppi e fin troppo. Noi qui invece daremo spazio alla musica underground che anima il nostro paese, che salvo rari casi trova spazio poi anche in un futuro sul palco sanremese o su insomma le radio mainstream, sui canali mainstream. Peccato, perché ce ne sono di gruppi bravi che meriterebbero ben altre platee molto più numerose, ma... Radio Città Aperta è qui a farvi conoscere belle proposte. Ci sono anche quelle che suggerite voi attraverso i messaggi. Già sta arrivando qualche richiesta anche in ambito di musica italiana. Sì, perché ad Alternitalia dovete chiedere solo musica che viene dal nostro paese. Non mi richiedete gruppi stranieri, perché in questo spazio non saranno suonati. E allora, per interagire con la trasmissione, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, la chat di Skype è Radio Città Aperta. C'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Alternitalia, la trovate su Facebook. Mi trovate su Instagram come Gianluca Polverari, così come trovate su Instagram anche Radio Città Aperta. Oggi avremo ospiti un gruppo che si chiama Corde Oblique, una realtà che torna con il nuovo lavoro, l'ottavo capitolo, dopo 5 anni d'assenza. Avremo Riccardo Principe, la mente del gruppo, con noi, quindi sonorità tranne o folk, richiami shoegaze e anche qualche chitarra più distorta, insomma una realtà molto valida, un bellissimo disco questo nuovo Cries and Whispers, che avremo modo di approfondire più tardi appunto con Cordi Oblique, progetto di Napoli. E durante la chiacchierata con Riccardo Principe, quindi con Cordi Oblique, lancerò anche la nostra diretta video. Però ecco, l'intervista sarà telefonica, non c'è Riccardo Principe qui in radio, ma lo raggiungeremo comunque al telefono più tardi. Bene, allora, se volete scrivermi, ripeto, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook Gianluca Polverari, Skype Radio Città Aperta. Saluto ovviamente anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su alternitalia.podomatic.com e anche su Amazon Podcast per chi segue la diretta. Ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere dal sito di Radio Città Aperta e dalle app collegate quali TuneIn, Radio, Radio Garden e via dicendo, il nome dell'artista, il titolo della canzone e eventualmente, se il nostro software la trova, c'è anche la copertina. E comunque poi condividerò la scaletta con tutti i titoli e i link sui miei profili social. Mi taccio, si parte. abbiamo iniziato oggi con Charlie Risso. Charlie Risso è un artista di origini genovesi che insomma ha operato tra Milano e Londra, ha collaborato in passato anche con Hugo Reis, e queste atmosfere un po' così cinematiche sono presenti nel suo album Alive, già a partire dalla copertina che richiama un po' certe atmosfere alla Twin Peaks. Se vedete, ecco, sul sito di Radio Città Aperta c'è anche la copertina che rende l'idea. Tra l'altro lei dice proprio di ispirarsi un po' alle atmosfere anche musicali di David Lynch, e quindi un disco assai piacevole che oggi abbiamo ascoltato con questa Railroad. E quindi siete sulla strada della musica italiana in compagnia di Gianluca Polverari. Faccio i primi saluti, ben trovato a Caciarus, tra poco arriverà la tua richiesta, saluto Danilo, Marco, Simone e ancora Filippo, un bacio a Demo, un saluto a Elisabetta, ad Alessandro. Questi sono almeno i primi contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione. E da Genova non so. Da Milano, se preferite, visto che è di origine genovese, ma ha vissuto, vive a Milano, insomma, tra la spola tra Milano e Londra, Charlie Risso. Ecco, ci trasferiamo a Brescia, dove opera Sherida. Se non sbaglio, poi dopo questo EP che vi vado a suonare, ha pubblicato un album. Questo EP uscirà nel 2021, intitolato By Night. Questo è l'odore della notte. No, in realtà ancora è pieno pomeriggio, ma intanto lei ci introduce a un weekend magari per molti di divertimento e non casalingo davanti alla televisione a vedere Sanremo. Ecco. Sherida, questo è un brano dal titolo L'odore della notte, dal suo EP che si chiamava By Night, per questo artista che pubblicò questo lavoro nel 2021. E allora arriva anche la richiesta di Cacciarus, che mi propone questo progetto che viene da Pontida, quindi da sempre dal nord Italia, un progetto che prende il nome di Il Silenzio delle Vergini, Pontida in provincia ovviamente di Bergamo. E allora andiamocelo a ascoltare questo brano intitolato Berenice da parte di Cacciarus, che ci ha fatto questa proposta, Il Silenzio delle Vergini. Il Silenzio delle Vergini, brano che poi questo Berenice ho suonato già altre volte in passato. Loro il progetto nasce anche dalle ceneri dei TikTok Bianconiglio, e quindi grazie al nostro ascoltatore Cacciarus attentissimo che ci propone queste canzoni e oggi ha proposto Il Silenzio delle Vergini. Saluto anche Roberta e vediamo, qui c'era anche Fabrizio, il buon Fabrizio Falcioni, ben trovato anche a lui, ben trovato anche a Simone. Bene, a questo punto andiamo avanti con un disco che poi avevo messo tra i posti alti della mia classifica del 2024, ossia A Smog Museum, il progetto di Nazario Graziano, un lavoro veramente molto ben realizzato tra elettronica, richiami post rock. Questa è Clap Your Hands, Say Death per A Smog Museum. Questa è la musica di A Smog Museum, disco che abbiamo presentato e che trovate anche come intervista in podcast sul sito di Radio Città Aperta. Il disco è The Poetico Space and Time. Bel lavoro che quindi oggi abbiamo approfondito con un passaggio con Clap Your Hands, Say Death. Vado a ripescare ora un lavoro edito qualche tempo fa dalla Glacial Movements, l'etichetta romana dal catalogo di artisti internazionali, con questo misterioso musicista, ma in realtà nemmeno troppo, perché lui si chiama Galati, scavando poi, cercando nel disco si scopre che si chiama Roberto Galati. Lavoro masterizzato quindi col supporto anche del grande Raffaello Antoni Crisarri, sonorità che evocano sempre nel loro immaginario ghiacci artici, però con un fare in questo caso anche più shoegaze, molto dilatato e meditativo. Devo dire un bel lavoro. Sidereal Distances per Galati. Galati, questo è il disco edito dall'etichetta chiamata Glacial Movements, il disco è Cold as a... poi ci sta benissimo, Cold as a February Sky, freddo come il cielo di febbraio. Beh, oggi è una giornata stranissima, alterna momenti di pioggia, poi si apre, arriva un po' di sole che scalda anche fin troppo, poi ritorna nuvoloso, piove, fa freddo e poi si riscalda, sembra, sapete, marzo, mese tutto pazzo. Invece il cielo di febbraio di questo weekend, almeno a Roma, non so dalle vostre parti. Non so, magari ci state ascoltando da distanze siderali, proprio come il titolo della canzone, magari qualcuno è collegato, che ne so, veramente dalla Groenlandia, che ancora la possiamo chiamare così, da appunto con il web ascoltandoci. Ecco, fateci sapere da dove ci state seguendo e ricordo che potete utilizzare i nostri contatti anche per le vostre richieste. SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468. Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. E siamo pronti per introdurre l'intervista odierna e quindi parliamo di un lavoro che va dietro la sigla Corde Oblique, l'ottavo album per Riccardo Principe e il suo stuolo di musicisti tra neofolk, elementi shoegaze, momenti anche più duri, soprattutto nella prima parte del disco, come avverrà ad esempio nella traccia che andremo ad ascoltare, disco ispirato proprio a Ingmar Bergman, il grande regista, il Cries and Whispers, e questi pianti e sussurri. Ebbene, ora andiamo ad ascoltare la traccia d'apertura dell'intero lavoro, The Nightingale and the Rose, per Corde Oblique. Ebbene, bene, bene, questo è il nuovo, nuovissimo disco di Cordi Oblique che si intitola Cries and Whispers. Ve lo faccio vedere anche in camera perché siamo in diretta anche video su Twitch, twitch.tv/radiocittaperta. Però potete vedere più comodamente il video andando proprio sul sito di Radio Città Aperta, si aprirà lo schermo in home page. Eccola qui la copertina per Cordi Oblique, disco che esce per la The Stones of Naples Records, le pietre di Napoli. Eh sì, perché ci trasferiamo proprio nella città partenopea, il progetto di Riccardo Principe con tanti musicisti a suo supporto. Ottavo album del gruppo dopo 5 anni di assenza. Ciao Riccardo, ben trovato. Pronto? Ciao, un saluto a tutti. Ah, ok, sì, ci sei. Ci pronto, sei. Ecco, sì. Ma stai con cuffiette o via voce? Sì. Forse è meglio toglierlo, si sente un vediamo po'. Vediamo se così va meglio. Ok. Allora, ben trovato, okay, benvenuto qui su Radio Città Aperta. Grazie. Ci si ritrova, ecco, dopo un po' di anni, 5 sì, anni dal sì, precedente che usciva in un periodo, insomma, non semplice in generale per chi produceva musica, perché era il periodo della pandemia, e invece adesso, ecco, magari la pandemia se ne parla di meno, ci sono altre vicende sicuramente poco piacevoli, però insomma oggi viene pubblicato questo album che è veramente molto valido, si chiama Cries and Whispers, dove la prima parte, i primi 6 brani sono i cries, i pianti, la seconda parte i sussurri, la prima parte un pochino con anche passaggi più duri, la seconda parte di natura più neofolk, però di quella ricca anche di suoni e suggestioni. E allora, cos'è questo album ispirato anche a Ingmar Bergman nel suo titolo? Sì, Gianluca, innanzitutto ti ringrazio per quello che hai detto. È un brano venuto, un album venuto con assoluta naturalezza, perché nella mia formazione, nel mio DNA, nella mia infanzia ci sono sia ascolti più virati sul metal, e poi c'è un'esperienza da giovanissimo, avevo 17 anni quando iniziai a suonare questo genere. E contemporaneamente ascoltavo il dark, però non il dark per capirci classico, il dark più dei Dead Can Dance, dei Juicy and the Bunches, quello là molto etereo, della Core D. Sì, Smortal Coil, quindi, tutte queste cose. Esatto, di Smortal Coil, esatto, bravissimo. E queste due cose le ho sempre conservate, poi iniziai a fare il conservatorio, quindi non c'era più spazio, università e conservatorio, per fare anche per suonare tutto, e quindi iniziai a suonare solo la chitarra classica, la musica acustica, però diciamo il desiderio poi di tornare ai riff insomma l'ho sempre avuto. Infatti, quando poi dopo un po' di tempo però ecco, non volevo far uscire qualcosa che avesse un suono un po' posticcio, perché registrare poi altre sonorità non l'avevo mai fatto, quindi avevo paura che non sarebbe stato convincente, diciamo così. Okay. E poi insomma, quando ho fatto un po' di gavetta, ho detto adesso sento proprio che lo devo fare, sentivo che era venuto il momento di tornare a quelle sonorità, e allora le ho inserite, e senza la paura di essere incoerente, perché poi alla fine sai, è un disco che potrebbe essere due dischi sostanzialmente. Eh beh sì, beh, lo hai diviso, no? In due parti per certi versi poi. Sì, esatto, sì, molti mi dicevano ma fai uscire due dischi, aspetta un po', ma invece no, perché questi pezzi sono usciti nello stesso periodo. Certo. E quindi io ci tenevo proprio a tenerli insieme. Il collegamento con Bergman, che è uno dei miei registi preferiti, viene dal film appunto Sussurri e Grida, che è un film dove innanzitutto c'è un basso continuo di Rosso che si lega molto anche all'artwork. Sì. Ma soprattutto c'è questa vicenda di questo dramma domestico, di questo dramma vissuto al chiuso, perché poi tutto il film è al chiuso tranne il finale, e la dicotomia che tutti viviamo tra una vita pubblica e una vita privata, fatta anche di cose del genere, mi ha molto toccato. Ho vissuto periodi, ecco, abbastanza difficili, e quindi mi sentivo proprio in quel mood là. Quindi tutto è tornato in modo abbastanza naturale e così si è generata questa cosa. È un disco veramente bello, ricco di atmosfere, un disco che offre veramente diverse suggestioni, raffinato, curato, ma anche, come possiamo dire, che va dritto al sodo. Devo dire, un lavoro che poi è anche di tributi, no? Perché alla fine fa il tributo a Ingmar Bergman, fai un'esecuzione alla fine del disco di, nonostante numero uno, insomma, di Erik Satie, c'è una cover degli Alcest, c'è un'altra canzone che è un tributo anche a Oscar Wilde, no? Proprio forse questa, sì, Nightingale and the Rose. È molto, sì, c'è molto di, ci sono molti tributi, in particolar modo, in principio questo disco doveva essere un concept su Oscar Wilde, però questo molti anni fa avevo in mente di fare un concept su Wilde, però nel tempo ho visto che poi sono usciti tre brani che erano le tre favole che più mi piacevano da piccolo. Di questi tre brani, due sono nel disco e un terzo era un brano molto lungo, che però era un brano manierista di me stesso, cioè era una cosa che non aggiungeva nulla a quello che avevo fatto finora. È un pezzo ripetitivo rispetto a quelli precedenti, e quindi è stato lo tosto, cioè non l'ho inserito più, nonostante l'avessi già registrato. Diciamo che poi crescere vuol dire anche saper tagliare, saper rinunciare a delle cose alle quali sei pure affezionato, però devi saperti poi anche guardare in modo un po' più oggettivo, a dire, non so, questo vestito mi sta bene o forse no. E quindi quello l'abbiamo tolto. L'ho tolto, diciamo così. Oh, tra l'altro, però, lo indichi proprio tu dentro il libretto. No, il libretto, quando si apre il disco c'è un volume 1, Cries, che dove sì, scrivi sì, proprio post-metal, folk gaze style. Sì, sì, volume 2 sì, sì, dici sì, post-folk. No, perché voglio che. Sì. Esatto, no, volevo che l'intenzione fosse proprio chiara. Quindi c'è una, appunto, una dichiarazione proprio di intenti, sia nel booklet, anche nella divisione nel retro del CD, per l'appunto. Esatto. Quindi volevo che fosse proprio chiaro in questo senso. E poi, insomma, ci sono una miriade di musicisti che suonano qui, tra tuoi collaboratori fissi e altri per l'occasione. Ecco, c'è Simone Salvatori di Spiritual Front, ci sono membri degli Ashram, c'è anche un'attrice italiana che è Maddalena Crippa, e più tanti altri nomi che sono elencati nel disco. Tante voci femminili, i testi sono nella maggior parte tuoi, giusto? Sì, sì, tutti i miei, tranne il pezzo degli Alcest. Esatto, che sì, sì. Ascoltammo a Lipsia durante il Wave Gothic Treffen, che è questo festival dove andiamo a cadenza triennale, diciamo così. Questa è la quarta volta, la prossima volta torneremo lì, 2027, l'ho appena saputo. Quindi siete stati nel 2024, ok. Esatto, sì, sì. Ho detto, guarda, spero di essere ancora in forma, insomma, per quella data. E dicevo, 2017, scusa, per curiosità, in quanti andate al Treffen? Sì. Allora, siamo sempre andati in formazione completa. L'ultima volta fu un po' un last minute, perché io dovevo andare lì e fare un duo di brani di chitarra e piano con Luigi Rubino, perché Luigi sta in tanti dischi nostri, quindi dovevamo fare una cosa acustica. Poi l'organizzatore disse, dai, facciamo pure Cordo Bigo, e quindi andammo in duo. Okay. Noi adesso stiamo spesso andando in duo, chitarra a voce con loop station, basi, pedali e cose varie, anche per esigenze concrete, diciamo così. Ora faremo una presentazione a Napoli in formazione completa, però i concerti sono a volte in duo, a volte in trio, e a volte in formazione completa, in quintetto. Al Treffen siamo stati sempre in formazione completa, tranne l'ultima volta in duo. Ok, perché poi come formazione completa, ecco, quanti siete? Perché io poi dal booklet, allora, chitarra, leggo così tanti nomi che poi alla fine non capisco, certo, chi è ufficiale. Sì, giustamente, chi... giusto, sì, sì, sì. Allora, chitarra, poi violino Edo Notarlo Besti, che è violinista che sta in tutti i nostri dischi, al basso Umberto Lepore, anche lui da sempre con noi, batteria Alessio Sica, e poi c'è la voce che è Rita Saviano, che è una voce con la quale lavoriamo da 6 anni grosso modo, molto brava, molto dentro, diciamo, questo progetto, insomma, molto coinvolta. Invece adesso faccio ascoltare Eleusa Consumpta, quindi dalla parte più acustica, sì. Con la voce invece sì, sì, di Denisa Serafim. Chi è lei? Allora, lei è la voce di una band bulgara che si chiama Irfan. Loro sono, insomma, un progetto che esiste da parecchio tempo, adesso diciamo in pausa. Io da sempre, diciamo, ero proprio fan loro, sono loro fan, e quindi ci siamo iniziati a scrivere con Denisa e siamo amici da molto tempo, e in ogni, diciamo, da tre album ogni volta dico a Denisa: ci devi stare anche tu, e quindi un brano lo canta anche lei. Okay. E fino a che l'anno scorso, dimmi, ah no, sentivo l'eco della mia voce. Ok. Fino a che l'anno scorso siamo andati in Bulgaria e ci siamo conosciuti e abbiamo fatto un concerto insieme anche a lei. Poi lei è stata con noi in Germania l'estate scorsa, e 2 settimane fa siamo tornati a Sofia sempre con lei per un concerto di corde oblique che ospitava anche lei. Ah, che bello. E allora ci sta tutto di ascoltare, sì, questa canzone Eleusa Consumpta. Sì, sì, sì. Vuol dire qualcosa su questa canzone, a parte, insomma, allora, sì. Questa, il brano si lega a una visita che facemmo dopo questo concerto, dove c'era anche lei come ospite, e lei disse: ti devo portare al Museo delle Icone di Sofia. E devo dire, dopo una giornata lunghissima in cui avevamo visitato di tutto il museo archeologico, io stavo distrutto, dissi: Denisa, non ce la faccio, con tutta la passione che ho verso questo, che tra l'altro è anche il mio lavoro, dissi: sono distrutto. E disse: no, ci devi venire. Comunque andammo, io stavo proprio stanchissimo, e vidi questa icona, che è la Vergine Eleusa. L'Eleusa vuol dire colei che mostra affetto. Quindi non una Vergine Regina distaccata, non so, ieratica, severa, ma quasi una madre umana. Però questa icona era tutta consumata, e quindi il titolo Eleusa Consumpta, okay, in latino vuol dire per l'appunto, certo, consumata. Era consumata dal culto spasmodico dei fedeli, perché in particolar modo nella zona di Bisanzio c'era questo rapporto fisico con le immagini, quindi toccarle, baciarle, consumarle, fino a che arrivò poi la reazione dell'iconoclastia proprio per contrastare questa fisicità. Tutto ciò si unisce al fatto che poi queste icone venivano in Occidente, venivano anche depredate dai crociati, e sono state importanti per la cultura occidentale. E tutto ciò, questa, diciamo, questo ponte tra le sonorità di quelle zone e le nostre, che poi è un po' il ponte che io sento con Denisa, cioè con Denisa sento questo collegamento, certo, tra i miei suoni più occidentali e la sua voce, che è molto orientaleggiante, e allora, insomma, è uscita questa idea. E allora ce l'andiamo ad ascoltare insieme dopo questa interessantissima presentazione. Eleusa Consumpta per Corde Oblique, oggi ospiti ad Alternitalia a Radio Città Aperta. Yeah. E questa è Leusa Consumpta, l'ottava traccia dall'interno del disco di Cord Obliquo e Cries and Whispers. Vi faccio vedere la copertina del disco in camera. Tra l'altro, ecco, disco, abbiamo al telefono Riccardo Principe dei Cord Obliquo, disco che a livello grafico richiama la danza, perché nella copertina c'è una danzatrice, dentro il libretto ci sono, ecco, altre danzatrici tutte vestite di rosso, hai accennato proprio al colore rosso come preminente di questo lavoro. Ecco, perché le danzatrici sul disco? Allora, sì, il lavoro è stato svolto da un fotografo indonesiano, lui si chiama Ardianto Budiman, e con lui abbiamo fatto anche le grafiche del disco precedente. Semplicemente trovavo questa serie perfetta per queste atmosfere e il rosso, ripeto, perfetto per il concept che avevo di quest'album. Quindi le sentivo proprio dentro, le sentivo vicine. Non c'è una ragione razionale, c'è proprio semplicemente una ragione emotiva. Quindi una sorta di danza dell'anima per questa musica. Sì, assolutamente. C'è anche un brano, vabbè, ci sono dei brani che richiamano un po' alla danza, per esempio un brano si chiama La danza di Bruegel, che è riferito alla danza contadina, che è un quadro che sta a Vienna, al Kunst Historisches Museum, e che guardo da quando sono piccolo. Infatti nella mia prima demo tape dei Lupercalia al 99 c'era un inserto proprio di questa danza contadina, sulla quale sono voluto tornare, diciamo, in fase matura. E anche questo brano che abbiamo ascoltato ha nella prima parte in particolar modo un qualcosa di riferito anche alla danza, quindi forse anche per queste, diciamo, ragioni mi sono piaciute tanto. Tra l'altro, a proposito di danza, c'è anche una traccia cantata in italiano con tuoi testi, col tuo testo, che è Tango di Gaeta. Se non sbaglio è l'unica traccia interpretata in italiano. Esatto, sì, questo disco a differenza dei precedenti dove c'erano tantissimi brani in italiano, qui ne è uscito uno solo stavolta. Sì, è riferito al tango, che tra l'altro, diciamo, il mio hobby, il tango. Lo balli? E sì, da tanti anni, come appunto come passione, però come passione abbastanza intensa, diciamo. Eh beh, sì. Tra l'altro sono danzatrici di tango, sì, queste, se non sbaglio, in copertina, o quelle anche interne, oppure no? No, queste sono proprio danzatrici acrobatiche, ok. Sì. Ok. Sì. Quindi ecco, un disco che esce oggi, ci sono sicuramente belle aspettative, il disco merita, lo continuo a sottolineare, e quindi adesso, sì, già ci hai accennato di alcuni live che ci sono stati in precedenza, come vi state organizzando per portarlo dal vivo e se ci sono anche delle date da annunciare? Sì, allora le prossime date sono 15 marzo a Napoli al Istituto degli Studi Filosofici, poi saremo a Jesi, al Circolo Cittadino di Jesi il 29 marzo, poi saremo in Portogallo, vabbè, un po' più fuori mano, in una città che si chiama Cuba, che onestamente non conoscevo da prima di questo invito, quindi pure là, Centro Culturale di Cuba. E poi saremo in Germania ad Aschaffenburg alla Notte dei Musei, che è un appuntamento dove ormai veniamo invitati ogni anno praticamente. È bello, queste sono quelle confermate. Ce n'è una in Serbia al Nisfield Festival, che è un festival jazz, però non so perché, insomma, però potremmo esserci anche noi. Però questa non è confermata. Quindi queste sono quelle al momento confermate, forse, ecco, più all'estero che in Italia. Speriamo che aumenteranno le date italiane, perché poi, ecco, anche se in posti piccoli, quando poi suoniamo anche in Italia io sono sempre contento, quindi spero che ne escano altre. Tu hai citato i Lupercalia, beh, era la tua prima band, eri molto giovane, lì facevate metal estremo, insomma. Allora, la band metal era un'altra, si chiama Sanguinaris, che era proprio detto metal. Lupercalia era era una band molto neomedievale, diciamo così, già acustica. Sì. Ah, già acustica, sì, ok. Sì. E noi facciamo il primo disco con la War Serpent, con l'etichetta dei Destin June, dei Coil. Certo. Sì. Allora, dovevo andare a recuperare. Era il primo... Il primo era del 2000 e il secondo disco la facemmo con Equilibrium Music, che è un'etichetta portoghese, nel 2004. Quindi questi sono gli unici due come Lupercalia. Poi appunto abbiamo fatto la demo tape del 99, un'altra demo, insomma cose che riguardano un altro momento storico, però mi piace ancora ricordarli. Sono, ecco, brani che i primi, proprio i primi pezzi li scrissi che avevo 16-17 anni, quindi ero piccolissimo. Poi c'è comune il nome, perché anni fa facevo dei DJ set quando ero resident all'INIT, parliamo ormai di un bel po' di anni fa, e le serate si chiamavano Lupercalia proprio, quindi vedi. Ma infatti io mi ricordo di queste serate che avevano questo nome, dissi, guarda, lo stesso nome, all'ex INIT, giusto? Esatto, sì, erano le serate. Noi abbiamo suonato di recente all'INIT a Roma. Però una nuova sede. Nome, RCCB, sì, a Roma, sì, RCCB INIT, che sta a Casa Albertoni. Esatto, assolutamente. Esatto, sì. Lì suonammo con un cantautore bravissimo, si chiama Rom, che è un cantautore lussemburghese. Ma da poco? Ma veramente, quindi mi ha fulminato. Da poco? Il 30 gennaio. Infatti. Ma siete scesi in quanti? Anzi, saliti in quanti? Due. Sì. Disco che esce per la The Stones of Naples Records, Le Pietre di Napoli. Bello questo nome di etichetta. Che cosa ci puoi dire? Sì, è la mia etichetta con la quale ho fatto uscire un paio di dischi, Per le strade ripetute. È una riedizione appunto di Stones of Naples. Prende il titolo da The Stones of Venice di Ruskin, che è uno dei miei libri preferiti. Quindi questo racconto dei luoghi, delle architetture, della storia dell'arte, un racconto sentimentale e poetico, una storia dell'arte che sia essa stessa letteratura, poesia, che non sia una storia dell'arte secca, statica, troppo gelida, troppo tecnica. Per questo, ecco, lui è per me un grande riferimento. Bene, quindi disco che esce oggi con distribuzione Audioglobe. Io ho il formato CD, esce anche, a parte in digitale, anche in vinile o no, insomma? Allora, stiamo, siccome di solito le edizioni in vinili dei nostri dischi le fanno a volte delle case discografiche asiatiche, e adesso uscirà la ristampa da un'etichetta cinese, appunto, che si chiama Vrijheid Record, la ristampa di Volontà d'Arte, che è un nostro disco del 2007. Spero che l'edizione in vinile di questo sia più a breve termine, perché quella del disco precedente è uscito dopo un anno. Questa non so, per ora appunto siamo in fase di trattativa per capire se e quando uscirà in vinile, però non c'è nulla. Ci sono delle bonus track che io vorrei inserire nell'edizione vinile, però vediamo un po' cosa succede. Certo, però insomma, ecco, ricordo che tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e quindi troverete, oltre al file audio della chiacchierata, anche il video di Nightingale and the Rose, e poi troverete l'ascolto dell'intero album, quindi preso, se non mi ricordo male, se non sbaglio, anzi no, lo devo ancora caricare perché è uscito oggi il disco, quindi lo devo andare a prendere oggi, da Spotify, sì, infatti. E sì, quindi oggi su Spotify, su Bandcamp, insomma. Comunque. Ok. E quindi ci sarà modo anche di ascoltare l'intero lavoro preso appunto da uno di questi portali, adesso deciderò quale, oppure mi dirai tu in privato da quale preferisci, insomma. E, okay. Bene, allora, in conclusione intanto lascio scegliere a te un brano da far ascoltare dal disco che vuoi, insomma, far conoscere. Sì, allora, visto che l'abbiamo nominato, facciamo sentire Tango di Gaeta, che è un brano in italiano, l'unico brano in italiano, che racconta insomma di una sensazione un po' triste, perché è una sensazione post-separazione, però racconta anche di questo luogo particolarissimo, perché è un incrocio di di influenze che siano sia ecco bizantine ma anche mediterranee, medievali, insomma è un posto particolarissimo che sta anche a un colpo di schiocco sia da Napoli che da Roma. Quindi sì, questo forse per chiudere il brano più adatto. Benissimo, da Napoli che poi ha una grande attenzione adesso nei suoi riguardi, anche per quel che riguarda la musica. Tu la percepisci questa attenzione degli ultimi tempi? Assolutamente, assolutamente. Napoli sta avendo molta attenzione sulla musica, tra l'altro tu contribuisci, voglio dire, a tua volta. Anche sì, è con vero. I tuoi programmi. E, sì, c'è, è pur vero che vedo l'unica cosa che forse sono interessato in quello che dico, però l'unica cosa che non mi piace è che c'è solo la Napoli napulegna, cioè nel senso la Napoli che canta in dialetto, che racconta di Napoli, e invece l'attenzione a quelle forme di musica che escono da Napoli ma che non cantano Napoli nel senso più classico del termine, chiaro. è un po' ridotta, soprattutto questo non per colpa di qualcuno, ma credo che sia proprio la vocazione della mia città, perché Napoli è una città che che canta se stessa e che gode di se stessa e che gode del fatto di non cambiare mai, nel bene e nel male, e quindi vuole rimanere quella. E ecco che non prolificano le cose, non prolificano a Napoli cose che non cantano Napoli. Questo è quello che noto da... Io diciamo vivo a Napoli da sempre, non mi sono mai spostato, ho viaggiato tanto, ma ho sempre vissuto là. E questa è la cosa che noto. E però credo che sia proprio endemica, cioè è proprio una cosa della città che non si può cambiare. Quindi, come si dice, nemo est profeta in patria, se fai musica che non è proprio autoriferita a Napoli, insomma. Esatto, sì, io questo è quello che noto. Poi non lo so, magari è il mio punto di vista, non... diciamo più cresco e meno sono sicuro delle cose che dico e che penso, però questa è una cosa che noto da molto tempo. Beh, questo lo diceva pure Marco Messina, che ho avuto modo di intervistare qualche tempo fa proprio per la mia trasmissione, e che diceva appunto in base a un festival che aveva organizzato e che ho anche presentato, ma del quale ora mi sfugge il nome, ma che è andato in scena tra novembre e dicembre, dove ha invitato Cristiano Godano e Zamboni, quindi artisti di fuori, dicendo proprio che è anche l'ora di portare a Napoli artisti di altre città, fargli suonare, non essere solamente autoriferiti in quel senso, insomma creare una forma di scambio in quest'ottica. Chi fa una musica che non è napoletana spesso soffre. Per esempio mi vengono in mente due band secondo me veramente di alto potenziale che o non si sono sciolte o magari ne soffrono un po'. Gli Slivovitz, bravissimo, che è una band jazz prog fantastica che si è sciolta dopo tanti anni, ma dal vivo erano una bomba, e Iepo, dicilo tutti, come no? Che cantano in italiano, sono bravissimi, ma non pure là Napoli non li accoglie sempre bene, ma come noi, voglio dire, come tanti gruppi che purtroppo non cantano Napoli in dialetto, non cantano proprio la città in quel modo che i napoletani si aspettano. Certo, sì, chiaro. Slivovitz, li ricordo, anche una bellissima versione jazz rock tiratissima, jazz rock noise di Nirvana, forse di Smells Like Teen Spirit, non mi ricordo. Tra l'altro qualcuno di Slivovitz, se non ricordo male, attualmente suona nella lineup di Nugenea, se non dico una stupidaggine. Comunque, Epo pure grandissimo progetto, abbiamo avuto modo di presentarlo anche all'epoca quando uscirono i suoi dischi, sì, un cantautore, poi non ho capito mai bene se è una band o comunque un progetto solo di Ciro, però insomma veramente grande poetica, e sono d'accordo con te che non hanno raccolto quello che meritavano, assolutamente. Sì. E allora, ecco qui, Tango di Gaeta per accordi oblique. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a cui tieni in particolar modo, a te i microfoni. Allora, ti ringrazio innanzitutto di questa chiacchierata molto approfondita, perché a volte le interviste sono, sai, volatili, con le solite domande. Invece mi è venuto spontaneo entrare un po' più in profondità, e questo è merito di chi, di chi gestisce l'intervista. E poi volevo ringraziare tutti quelli che mi stanno già da stamattina scrivendo, che ci stanno aiutando anche a ripostare il disco, perché poi alla fine l'etichetta è piccolina, è la mia etichetta, quindi non abbiamo questi grandi sponsor, diciamo così. Quindi le persone che ci seguono sono la cosa che mi fa stare ancora qua dopo 20 anni, perché questo è il nostro 20° anniversario, a fare musica, a fare dischi. Quindi grazie principalmente a loro, insomma. E allora ci andiamo ad ascoltare dal disco appena uscito oggi, Cries and Whispers di Corde Oblique, questa traccia dal titolo Tango di Gaeta, che ripetiamo è l'unica interpretata in italiano all'interno di questo bel lavoro che vi consiglio. Grazie Riccardo per essere stato con noi. Grazie Gianluca e grazie a tutti quanti. Ciao. Corre! tua poesia più vera. Ed io riuscirò a perdonar mia madre. Tu scriverai la tua poesia più vera. Ed io riuscirò a perdonar mia madre. Tu scriverai la tua poesia più vera. Ed io riuscirò a perdonar mia madre. Tu scriverai la tua poesia più vera. Ed io riuscirò a perdonar mia madre. Onde nere del mar di Gaeta, ocra nera felina la sera. Onde nere del mar di Gaeta, succo nero era il mar di Gaeta. La musica è quella dei Corde Oblique, quindi i nostri ospiti oggi qui a Radio Città Aperta. Vi faccio vedere il disco in camera, eccolo qui. Oh, quindi tra poco uscirà il podcast di questa chiacchierata. E allora sì, ci sono atmosfere così acustiche, richiami in altri brani a sonorità più dure. E allora ci spostiamo su questo equilibrio con la musica dei Messa, da Cittadella, formazione conosciuta a livello internazionale, che adesso pubblica nel loro quarto album un disco che prende il titolo di The Spin, edito dalla prestigiosa Metal Blade. E allora copertina, tra l'altro, se non sbaglio, curata da Nico Vascellari, quindi anche un artista importante in tal senso, per I Messa, il nuovo album che contiene anche questa traccia dal titolo At Races. We'll be right back. Loro sono i Miss con At Races, quindi il lavoro della band di Cittadella con questo nuovo titolo. È una canzone sicuramente coinvolgente per questa, ripeto, band che ha un successo e un seguito internazionale. Tra l'altro, verso la metà del 2024 aveva avuto ospite il chitarrista dei Messa, che si cela dietro il nome Little Albert, il piccolo Alberto, e registrò un album dal titolo The Road Not Taken, disco di natura più blues. E allora ci ascoltiamo Demon Woman per Little Albert. Lui è il chitarrista dei Messa. E questa è la musica di Little Albert, l'album è The Road Not Taken, disco che uscì lo scorso anno, per il chitarrista dei Messa, un blues di quelli più così elettrici. E allora rimaniamo in Veneto perché c'è anche una bravissima artista che viene da Vicenza, si chiama Ellie Demon, stiamo conoscendo ben bene questo album intitolato Rise, lo faremo ancora meglio in futuro quando lo avrò ospite, lavoro dove già ho spiegato in passato che, ecco, oltre a contenere una materia blues torbida e scura, ecco, il tutto viene interpretato in lingua vicentina. Eccola qui, lei è Ellie Demon. Questa è Jose. Arriva, eh? Oggi il lettore ci dà qualche problemino, ma ci siamo. Jose per Ellie Demon. Jose che casca su un pozzo d'acqua, rispetta piaggio che è sempre. I seggi se slarga pian pian. Quindi anche lei nella scaletta odierna di Alternitalia, 17.35 in rigorosa diretta con voi, Gianluca Polverari. E allora ricordo che dalle 18 sarà poi Talking Loud in onda con Alessio Ramaccioni, Federica Pietra, ci ha promesso che ci sarà oggi, quindi l'attendiamo. E poi dalle 20 Night Toys con Dario Pizzetti. Da Milano, i Long Gone, disco del 2023 intitolato Drowned, Affogare. Non si affoga, non si affoga se non dentro, bella musica. Dedico questo brano, Getting Cold, prendere freddo, a tutti coloro che oggi dicono di aver freddo. Giornata così, che alterna almeno qui in città momenti di pioggia, sole non pallido, anzi, che si fa sentire e poi ritorna pioggia, insomma c'è chi ha freddo poi alla fine. Getting Cold, Long Gone. E questi erano i Long Gone, quindi da Milano con la loro Drowned, quindi dedicata a tutti coloro che hanno freddo, magari con questo, anche in questo caso possiamo dire blues molto così meditativo per certi versi. E rimaniamo a Milano, ma con qualcosa di più scuro e tirato. La musica è quella dei Buñuel, che poi è sull'asse sì Milano, perché c'è Xavier Iriondo, però c'è Eugene Robinson che è statunitense, e poi c'è il batterista del Teatro degli Orrori. Insomma, i Buñuel sono tornati nel 2024 con Mansuetude. Questa è la loro class per quel che riguarda, ripeto, i Buñuel. altro disco che abbiamo presentato qualche tempo fa proprio con Xavier Riondo. Potentissimi signori, ripeto, Buñuel, formazione che è composta da Xavier Riondo, After Hours, Short Apnea, Polvere e molto altro ancora, Eugene Robinson degli Oxbow, poi c'è il bassista Andrea Lombardini dei The Framers e poi Franz Valente del Teatro degli Orrori. Vi segnalo un concerto domani al Fanfulla di Roma, saranno di scena gli Absurdo. Gli Absurdo furono una delle formazioni bolognesi dell'area più sperimentale di fine 70, primi 80, un po' più deviata, insieme a quella dei Confusional Quartet. Il circuito era quello che ruotava intorno anche ai vari Gas Nevada, Schiantos e via dicendo. La Revap, l'etichetta romana pubblica del materiale contenente credo Rarità e altre pubblicazioni insomma non molto conosciute degli Absurdo, loro che erano presenti in una storica compilation chiamata Ref 907. E allora gli Absurdo e la loro No Wave saranno di scena domani al Fanfulla di Roma, in via Fanfulla da Lodi a Pigneto, e a seguire Pierpaolo De Iulis di G7, lui che è anche il boss proprio della Revap Records. Ci ascoltiamo una traccia degli Absurdo dell'epoca intitolata Stenotype, così per farvi capire di che cosa parliamo. Questi erano gli Absurdo, sono gli Absurdo perché sono ancora di scena e domani saranno dal vivo a Roma al Fanfulla per questa data di presentazione anche della raccolta curata proprio dalla Revap, l'etichetta di Pierpaolo De Iulis, e quindi beh, sicuramente un documento importante per questa band che io conobbi appunto perché faceva parte di una compilation chiamata Ref 907, proprio dei primissimi anni 80, una compilation che all'interno, oltre agli Absurdo, conteneva anche gli Eurotunes da Roma, i Metal Vox da Modena, se non ricordo male, i Kerosene, e poi c'erano gli Ipnotico Tango da Terni. E questa è una canzone che ora ci andiamo ad ascoltare proprio da Ref 907. Non si aggira nella notte in affianco. Ipnotico Tango. Faceva sospirare le ragazze, mi ricordo molto bene, era un tango maledetto, che noi bambinoni restavamo lì a guardarlo con i corpi più frammenti aspettando un sorriso. tango, tango, un ipnotico tango, un ipnotico tango, un ipnotico tu. Ipnotico tango, un ipnotico tango, un ipnotico tango, un ipnotico tu. La musica era quella dei signori chiamati Ipnotico Tango, venivano da Terni, poi avranno successo più nell'ambito della Italo Disco per quel che riguarda un progetto che chiameranno My Mind. Il brano di successo sarà proprio Hypnotic Tango, quindi useranno come titolo della canzone il nome della loro band, quindi come Hypnotico Tango diventeranno poi My Mind, Italo Disco, e avranno successo con Hypnotic Tango. Eccoli qui, insomma, da Terni, vecchie cose anni 80, un brano che mi ha ricordato molto un qualcosa degli anni 90, ossia un brano che era dei PVC, formazione che incise solamente un album, formazione guidata alla voce da Marco Bedini, che proveniva dai Grunge, poi i Grunge sono rinati, però insomma all'epoca quando uscirono i PVC si erano sciolti. Album che si concludeva con Ero Feto, da Elettrodomestico i PVC. Scusami tanto, per infinita dolcezza. Ero feto per PVC, era l'album della seconda metà degli anni 90, una delle mie prime così trasmissioni di Alternitalia, sarà stato il primo o il secondo anno di Alternitalia quando usciva questo disco di PVC, Libi ospiti all'epoca, gruppo guidato da Marco Bedini, attualmente ha ripreso il suo progetto grunge con altri musicisti, altri componenti. Io sono giunto al termine di questa odierna puntata di Alternitalia. Tra poco saranno di scena in rigorosa diretta audio, chissà se anche video, i ragazzi di Talking Loud, sia Federica Pietra e Alessio Ramaccioni, e poi dalle 20 sarà poi la volta di Dario Pizzetti, Night Toys. Ti piace che ti ho detto ragazzi? I ragazzi di Via Casal Bruciato. Che mano che sarà detto ancora tutta la giornata. Beh, i ragazzi di Casal Bruciato, ce ne sono tanti, belli. Ragazzi e ragazze. Bene, quindi non perdete il resto della programmazione di Radio Città Aperta. Io sarò di nuovo in onda con Alternitalia la settimana prossima, venerdì prossimo, e poi per altri appuntamenti lunedì il primo è Puzzle dalle ore 16, Noise, Psichedelia, Post Punk, Elettronica e molto altro ancora. Buon weekend e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Ciao ciao da Gianluca Polverari.